Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Una vicenda dall'esito positivo, quella che raccontiamo oggi insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, vicenda che si conclude bene dopo tanta battaglia, e spesso le battaglie sono anche lunghe, sono di appostamento, diciamo così. Qui si coinvolge Poste Italiane e una carta Poste Pay. Siete arrivati a far ottenere a chi ve l'ha chiesto un risarcimento davanti al giudice. Raccontaci com'è andata. Sì Mirko, una vicenda che Adico è impegnata da diversi mesi nei confronti di Poste per permettere a chi si è trovato ad avere a debiti fraudolenti dalle Poste Pay a ottenere giustizia, in quanto a fronte di addebiti di cui il consumatore ne è risultato estraneo, le Poste ha cercato sempre di fare le orecchie da mercante quando si tratta di dover restituire i soldi spariti così da queste Poste Pay, da queste, in questo caso, ricaricabili. Questa volta le Poste hanno provato a sfidarci davanti ai giudici e siamo contenti a poter dire che a darci ragione sostanzialmente è stato il Tribunale di Treviso qualche giorno fa, dove ha condannato le Poste, oltre alle spese legali, alla restituzione di tutti gli addebiti che la persona si è provata la sua insaputa vittima e quindi alleggerita dal proprio conto. Che fine avevano fatto questi soldi? Praticamente noi nelle vicende delle Poste Pay abbiamo riscontrato una grandissima anomalia, come per esempio il sito SNAI, che è quello, il sito per eccellenza delle giocate d'azzardo. Chiunque può permettere di poter giocare con carte prepagate che non siano anche estranee rispetto a quelle che sono le credenziali con cui una persona si registra nel sito. Cosa vuol dire? Che se io rubo a te i dati della tua carta prepagata o la tua carta prepagata, posso giocare a nome mio con la tua carta. Quindi questo sicuramente è un fenomeno che bisogna contrastare, perché è anche un fenomeno, a nostro detto, anche che assomiglia molto al riciclaggio. Cosa è successo? Che quindi la persona in oggetto si è trovata alleggerita di quasi 1.000 euro e non trovando giustificazione sulle giocate e non trovando giustificazione su quelli che erano gli orari e le somme che aveva sostanzialmente erano sparite dal conto, si è rivolto a noi all'Adico. Certamente le Poste, come ha sempre fatto, ha cercato di fare le orecchie da mercante, fin tanto che siamo stati costretti a citarli in giudizio e finalmente, per i motivi che noi abbiamo sollevato, ci hanno dato ragione. Questa persona abitualmente aveva dei comportamenti legati appunto alle scommesse, al gioco online, oppure no? In questo caso la persona non aveva mai giocato e giocato online, e anche gli orari e gli addebiti automatici, si parla di addebiti da 250 euro distanziati da un giorno all'altro, non erano riconducibili a lei. Noi come Adico abbiamo ottenuto tantissime vittorie nei confronti delle Poste per questo fenomeno. Abbiamo predisposto dei moduli, li diamo gratuitamente ai nostri soci, dove invitiamo le Poste a restituire quelle buone e quelle cattive le somme indebite, perché se anche le Poste mantiene sempre un atteggiamento che tende a dire colpa tua che hai navigato su siti poco sicuri, in realtà la legge prevede che se io do in custodia a te il denaro, sei tu che devi garantire che questo denaro non sparisca. Quindi da un lato vuol dire che c'è qualcosa che non va sui sistemi di sicurezza. Dall'altra, certamente, a fronte di questi moduli dove invitiamo le persone a fare denuncia alla polizia postale e ai carabinieri, perché comunque c'è un indebito fraudolento dei propri soldi che spariscono dal conto corrente, se prima le Poste rimborsavano quando facevamo la voce grossa, questa volta hanno voluto sfidarci, probabilmente vedendo se i giudici la pensavano come noi. E certamente ora, in virtù di quella che è stata una sentenza molto importante, che diventa anche il primo riferimento in Italia per queste vicende, certamente più che mai saremmo determinati a portare avanti quelle posizioni che sono ancora aperte. Come si fa, come avete fatto a dimostrare che certe spese non le aveva fatte il titolare o la titolare della carta? Beh, sostanzialmente non è pensabile che una persona che vada a fare denuncia ai carabinieri, alla polizia postale, che gli sono spariti dei soldi, non è naturale pensare che siano stati, che sia stata la stessa persona a dire li ho persi e poi vado a fare una denuncia. Poi certamente anche gli orari e gli importi fanno capire che la persona certamente non era estranea, perché non è pensabile avere un importo di 250 euro alle 11.58 e avere un importo di 250 euro alle 12.02, come non è pensabile che la giocata sia stata fatta in località completamente lontane o diverse rispetto a dove la persona risiede. E poi soprattutto è rimasto il fatto che c'era anche una denuncia della persona che aveva smarrito, in questo caso la carta prepagata, che è stata antecedente a quello che sostanzialmente poi è stato il reato commesso. Ma a prescindere da questo, i riferimenti legislativi prevedono sempre che se io do in custodia a te un denaro, sei tu che devi garantirmi che questo denaro deve essere salvaguardato, quindi essere e fare in modo che qualcuno accede alla rete e si impadronisca anche delle mie credenziali per poter poi fare delle scommesse, certamente questo fa evidenziare delle criticità. E nelle criticità e nelle denunce abbiamo evidenziato agli organi di giustizia come per esempio il sito SNAI permette a chiunque di poter fare delle scommesse con delle prepagate che non siano attribuibili ai riferimenti con cui una persona si iscrive nel sito, quindi anche questa è una grossa criticità che certamente in questo caso il sistema non aiuta le persone a poter salvaguardare anche in questo, come in questo caso, i propri conti, i propri soldi. Bene, allora, per chi è riuscito a recuperare i soldi, parliamo in totale di 1.002 euro, comprese di rimborsi, spese aggiuntive e quant'altro. È una vicenda che è finita bene grazie al lavoro incessante dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che ringraziamo e ritroveremo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie al Presidente Carlo Garfolini e buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.